siamo tanto lontano, dove più dolce sarà rivivere quel sogno che un di fiori voglio condurti per mano verso la felicità venuta ormai quel giorno che ogni dolore farà svanir. Un solo desiderio mi viene pensando a te, desidero che sempre tu resti accanto a me. Voglio condurti per mano dove ti attende già una piccola casetta che il nostro amor racchiuderà. Il nostro amor